parliamo di donne nei media nel 1977, rappresentazione delle donne e del rapporto tra i sessi nella radio e nella TV del 1977, a cura di Elisa Giomi e Marta Perrotta, che sono qui in onda con noi. Benvenute, buona giornata. Buongiorno, di lotta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, raccontateci un po' questa ricerca, com'è nata, di cosa parla. E... sì, la ricerca è nata in occasione di un convegno che si chiama Italia 1977, ambivalenze di una modernità, convegno che si è svolto al Senato della Repubblica, alla Biblioteca del Senato, lo scorso aprile, 18 aprile. E in occasione di questa manifestazione, che è stata sostanzialmente un convegno di prospettiva storica sull'anno 1977, io e Elisa ci siamo occupate di analizzare la situazione dei media, in particolar modo di radio e televisione, con una prospettiva di studi sulla rappresentazione delle donne e soprattutto sulla possibilità attraverso i media di raccontare il rapporto fra i sessi. Abbiamo preso in esame due programmi in cui la rappresentazione delle donne e anche la partecipazione produttiva, in particolar modo per quanto riguarda la radio, era particolarmente interessante, e ci siamo addentrate in questo viaggio nella televisione, nella radio del 77, che è tanto lontano quanto interessante e pieno di spunti anche per i contenuti di cui ci occupiamo oggi. Quindi lascio a Elisa, diciamo, il compito di illustrare un pochino l'impostazione della ricerca, e adesso ascolteremo anche qualcosina dalle registrazioni di questi momenti. È sicuramente un anno particolarissimo, quello del 77, e quindi appunto lo scopo era vedere se radio e televisione sapevano articolare in modo efficace le trasformazioni intervenute nella condizione femminile, nel rapporto fra i sessi e nel movimento delle donne. Due cenni, due sull'appunto aspetto storico. Nella prima metà degli anni 70 questo nuovo soggetto femminile va imponendosi e affermandosi come soggetto politico, e il 76, quindi l'anno immediatamente precedente, viene un po' ricordato come un momento di svolta nella storia del femminismo, perché è l'anno cruciale, è l'anno in cui si discute dell'aborto, è l'anno in cui fanno il loro ingresso sulla scena del movimento femminile e femminista anche i gruppi della sinistra extraparlamentare. Secondo Ilda Domineianni è importante sottolineare come nel 77 il rapporto fra il movimento del 77 e il movimento femminista, come dire, vede una priorità di quest'ultimo. È una frase molto efficace quella che lei utilizza e che mi piace riportare: per la prima volta le donne abitavano la scena pubblica più che come soggetto imitativo, quali erano stati fino a quel momento, come soggetto da imitare. Non si ricordano, credo, altri momenti storici, no, in cui l'ago della bilancia pendesse a favore, diciamo, del soggetto femminile. Va bene, insomma. Quello che noi ci siamo chieste è cosa viene fuori dal racconto televisivo e radiofonico. Io mi sono occupata di Partita 2, che è una trasmissione di taglio sociologico, sostanzialmente che si proponeva di affrontare in modo nuovo, con taglio sociologico appunto, i problemi della coppia. Questo è il nostro tema. Le coppie che vengono intervistate sono un po' coppie che costituiscono un osservatorio privilegiato, perché sono prevalentemente esponenti del mondo dell'arte, della letteratura e dello spettacolo, anche persone comuni, però, diciamo, appartenenti a una classe sociale elevata, quindi, diciamo, è un po' tutto in qualche modo, non dico falsato, ma chiaramente rappresentano un po' delle avanguardie. Lo si vede questo, il carattere avanguardistico, nelle nuove sensibilità che vengono consegnate al racconto di Partita 2. Tutte queste coppie dichiarano di praticare delle relazioni innovative, cercano una relazione autentica, vogliono dirsi tutto, addirittura sperimentano formule in cui si vive in case diverse per continuare a comportarsi da fidanzati. Ovviamente, diciamo, se lo possono permettere, certo, perché insomma molti non ce l'hanno neppure una di case. Però a me quello che interessava è vedere appunto la rottura degli schemi e allo stesso tempo la persistenza di tratti di tradizionalità e conservatorismo, ed è veramente un ritratto a luci e ombre quello che emerge. Si può sentire l'inizio di una puntata in cui sono protagonisti Lino Capolicchio, che è un attore teatrale e televisivo all'epoca già affermato, e la moglie Paola Pascolini, che invece è una sceneggiatrice esordiente, farà invece carriera negli anni seguenti ed è tuttora attiva. Quindi abbiamo un lui famoso, una lei meno famosa, una lei di 30 anni che quindi viene, come dire, a vivere la sua gioventù proprio in un momento in cui il momento femminista è particolarmente forte. Possiamo sentire l'inizio di questa puntata. Sì. Che sigletta. Stasera Partita a Due ospita Lino Capolicchio, che è un attore di teatro, di cinema e di televisione molto noto, e sua moglie Paola Pascolini, che lavora come sceneggiatrice. Quando parliamo di coppia, in genere si pensa alla coppia sposata, perché il matrimonio è la forma codificata, accettata, in cui appunto l'uomo e la donna convivono. Però in certi ambienti, che sono ancora ambienti di avanguardia, ambienti d'élite, perché la maggior parte delle persone non possono né economicamente né culturalmente fare scelte diverse, si cercano sia forme alternative di vivere in coppia, sia dei modi di vivere il matrimonio con formule diverse. Penso che questo sia un po' il caso di Paola e di Lina, a quanto ho capito. E quindi la prima domanda che vi volevo fare era appunto questa: voi siete sposati, però vivete il vostro matrimonio in maniera diversa. In che maniera avete tentato di renderlo diverso dal codice tradizionale? Oggi forse vivendo insieme il meno possibile, quindi cercando di rifidanzarci, che mi sembra come esperienza attuale abbastanza importante, abbastanza divertente, cioè cercando di vivere in due città diverse, questo perché soprattutto il lavoro di Lino lo porta ad essere abbastanza lontano, e a volte quando la sua permanenza a Roma si prolunga troppo, vivendo anche a Roma in case diverse, quindi ci vediamo fuori, andiamo al cinema, cioè continuiamo a fare insieme le cose che ci piace fare insieme, mentre eliminiamo quelle che non ci piace affatto fare insieme, cioè quello di scontrarci forse per casa nervosi la mattina quando io mi sveglio nervoso. Ecco, sì, appunto è una testimonianza abbastanza fedele, perché i racconti delle altre coppie poi sono in linea con questa. La fedeltà che viene dichiarata da molti di questi intervistati come, diciamo, un valore in qualche modo a volte anche controstrategico, cioè dicono il tradimento a volte può essere funzionale a mantenere la salute, la vivacità della coppia. Però di nuovo forti differenze di genere, nel senso che guarda un po', in tutte le coppie che io ho analizzato, sono quattro, chi tradisce dichiaratamente è sempre solo lui, per cui c'è un'area di resistenza e di conservazione di antichi schemi in realtà, no? Perché è sempre lui che fa il fedifrago e lei non ha ancora avuto relazioni extraconiugali. Tra l'altro lui in genere è molto compiaciuto della presunta gelosia della compagna. C'è un differente investimento nella coppia, l'altro tema che abbiamo affrontato, nel senso che per lui è uno dei tanti ambiti della vita. Per lei la coppia invece è un'esperienza più totalizzante. Il mito fusionale, il famoso mito fusionale che tutt'oggi insomma resiste, all'epoca veniva messo in discussione, però si dimostra del tutto estraneo agli uomini. Esemplare da questo punto di vista la frase del regista Marco Bellocchio, che è sposato con Gisella Burinato, un'attrice teatrale, anche lei esordiente, lui invece era già un regista famoso nel 77. Lui dice: io credo, rivolta alla moglie, che tu e io non è che dobbiamo essere in assoluto l'uno per l'altro, tu hai le tue zone del tutto private e io le mie. Argomenta lui così appunto la scelta di non confessare le scappatelle alla moglie in nome del benessere della coppia. Quello che mi porta a sottolineare però è che questo mito, dicevo, della fusionalità totale ha iniziato un po' a fare acqua da tutte le parti, come dice la conduttrice di Partita 2. Dice la conduttrice: mi sembra un passo avanti, perlomeno quello di accettare il fatto che l'uno per l'altro non può essere tutto. Questo ci porta sull'ultimo tema che io ho affrontato, e che è appunto quello della autonomia femminile. La differenza, pur in un quadro in cui resistono dei tratti profondamente tradizionalistici nel sentire femminile, la differenza è che c'è una nuova consapevolezza che si sta facendo largo, una consapevolezza di quanto e come certi atteggiamenti anche verso la coppia, verso l'amore, verso l'altro, siano il frutto di modelli educativi, oggi diremmo gendered, cioè di modelli, di pattern, proprio di schemi che sono fortemente condizionati dal genere di appartenenza. Una dirigente d'azienda intervistata assieme al marito e avvocato dice: perché è curioso, mi sono resa conto di questo, sembra una banalità a noi, ma insomma è importante. Le bambine giocano spessissimo con la visione del matrimonio, cioè si proiettano in un sogno matrimoniale, desiderano sposarsi, sono affascinate dal vestito bianco e da tutta quella retorica, dice lei, che di nuovo è interessante. Invece per l'uomo questo gioco non c'è. Gisella Burinato, la moglie di Bellocchio, fa eco sottolineando come siamo tutte culturalmente addestrate a vivere di solo amore. La soggettività femminile, consapevole, illuminata da questa nuova consapevolezza, prende le distanze, e si vede benissimo nei racconti delle intervistate, dalla mistica della femminilità della famosa Friedan, cioè secondo loro, come dire, maternità, matrimonio non sono più dei destini segnati, sono delle scelte da riconfermare di volta in volta, e soprattutto non sono delle scelte scontate. Il rapporto con l'altro, dice la moglie di Bellocchio, è un rapporto che io voglio costruire al di là delle formule, e in particolare, dice la moglie di Lino Capolicchio, Paola Pascolini, al di fuori, un termine che mi sembra essenziale, al di fuori del formalismo borghese. È una classe privilegiata, è una classe educata, è una classe illuminata, è una classe sostanzialmente abbiente, però proprio per questo probabilmente è più ricettiva rispetto alle nuove formule. Un altro ascolto sull'autonomia femminile e sul rapporto tra il percorso personale e il movimento delle donne, due storie che dialogano e che restituiscono appunto un ritratto in cui privato e pubblico sono fortemente intrecciati nel sentire, nella soggettività di queste giovani donne dell'epoca. È il secondo ascolto, sempre da questo frammento, che vede protagonisti l'attore Lino Capolicchio e la moglie Paola Pascolini. Probabilmente che ti pesa addosso, quanto pesa addosso a tua moglie, vorrei chiedere, cioè, quanto te lo senti addosso questo fatto di essere moglie di qualcuno? Ma all'inizio moltissimo, credo, e adesso sempre meno, e perché sto recuperando con il mio lavoro tutto un mio rapporto personale anch'io con gli altri, soprattutto con me stessa. Quindi all'inizio sì, ero veramente, se bisognava indicarmi, ero la moglie di Capolicchio. Oggi mi fa molto piacere che si dica di me Paola Pascolini, quindi... D'altronde non è un fatto che riguarda solo te, perché diciamo la condizione femminile, la condizione delle donne in generale, proprio quella di essere indicate come mogli, di sorelle, di figlie di qualcuno, cioè sei sempre in funzione dell'uomo. Sì, sì, naturalmente, infatti prima ero la figlia di mio padre. Esatto, e poi diventi moglie di qualcuno, ma sì. Persona autonoma mai. Quindi adesso c'è invece un, diciamo, un movimento di donne, non soltanto tu, ma c'è questa tendenza invece a fermare la propria autonomia in quanto persone, no? Quindi mi sembra che tu ti... Sì, e infatti senti. Credo che la mia evoluzione sia proseguita di pari passo con quella della donna in generale di oggi. Sono arrivata anch'io a certe maturazioni in tempo giusto, credo, perché... E te fa paura questo? Ti senti minacciata da questo fatto che Paola sta uscendo dal guscio, diciamo, con i suoi piedi? Ma io... Non è che mi sento minacciato io, secondo me si sentono minacciati gli uomini, è diverso, hai capito? Cioè l'uomo si sente comunque minacciato, si sente minacciato da questa esplosione femminista, e l'uomo ha paura di questo. Però tu hai due cose da difendere, a quanto ho capito, te stesso come uomo e te stesso come personaggio. Sì, ti dirò, cioè sul piano dell'uomo mi fa molto più paura. Ecco, appunto, sono delle parole, anche queste, estremamente... eloquenti rispetto, sì, a ciò che stava accadendo sulla scena pubblica e cosa accadeva anche nel privato e nell'intimo, diciamo, del sentire femminile. C'è una forte messa a tema, infatti, di quanto le donne siano sempre state identificate in funzione e relazione dei propri compagni. Per queste giovani donne che sono anche esposte, perché appunto conducono mestieri nell'ambito dello spettacolo e hanno la pesante eredità di un compagno famoso, il percorso di autonomia è doppio, un doppio movimento: è costruirsi a livello professionale e quindi mettere in discussione non solo appunto la relazione col compagno, ma anche costruirsi in maniera autonoma e sganciata appunto rispetto a un compagno famoso. Concludo dicendo che tutte queste conversazioni riflettono molto da vicino i nodi affrontati nei collettivi femministi e nei gruppi di autocoscienza sul tema dell'autonomia e sul tema della libertà femminile, e soprattutto sul tema del rapporto con le costruzioni culturali maschili. Ultimissimo ascolto, qui sono Marco Bellocchio, il regista, e la moglie Gisella Burinato a parlare su un tema che di nuovo è quello della fedeltà e dell'autonomia, e diciamo vede Gisella Burinato concludere in un modo che mi piace riportare. È l'ultimo ascolto che facciamo. In futuro li avrò, non lo so. Lui me lo dice, certo che da parte mia non è che ci sia questa cosa di ah che bello, cioè, no, ti scatta la gelosia. Sì, mi scatta molto, anche perché oltretutto sono una donna molto gelosa, forse lui dice che sono anche possessiva, ma bisogna vedere. Cioè, senz'altro. No, non, beh, è vero. Vorrei, non essere maligno, ma vorrei vedere te alla prova se lei avesse una relazione, probabilmente. Ah, certamente, io accetto questa possibilità. Cioè, teoricamente, per ora, no, dal momento che... Per ora non siamo banali, scusami, ad un certo punto o mi credi o non mi credi, insomma. No, ti credo, però sai, dal dire al fare. Però dal dire al fare, poi è una cosa che riguarda te, capito? Ah sì. E lui deve dire, ma io, fallo, e poi si vedrà. Sì, ma per me questa cosa, per me questa cosa è un po' una lama a doppio taglio, capito? Fallo, fallo, no, libera, perché tu mi dici... Io faccio. Allora non chiaro. Sei minimamente libera. E no, non, e io te lo dico che non sono minimamente libera. Momento, però per me dico. Ma vuoi esserlo libera? Sì, voglio esserlo, ma non come me lo dici tu, capito? È tutto qui il problema. Per essere libera mi devo sentire libera. Dal momento in cui mi sento libera, allora farò. Evidentemente in questo momento non me lo sento, però non mi sembra neanche giusto che perché tu sei andato con un'altra donna, io adesso ti sistemo, vado con un'altra. No, no, ma infatti è una non cosa è... che proprio no, non. No, ma guarda che io non l'affermo assolutamente, scusami. Rispondevo a te che dicevi, ma se io quando io. Sì, voglio esserlo libera, dice Gisella Burinato rispondendo al marito che praticamente la provoca invitandola a tradire, no? Con un effetto di parossismo, insomma. Sì, voglio esserlo libera, ma non come me lo dici tu, capito? È tutto qui il problema. Per essere libera mi devo sentire libera. Sono affermazioni che rivelano il disagio comune a moltissime donne dell'epoca nell'assumere modelli di comportamento e pratiche sessuali di rottura rispetto alla tradizione, ma che sono da loro percepiti giustamente come diretta emanazione maschile, cioè la testimonianza è quella, no, delle trasformazioni che sono conosciute in questo momento dalla soggettività femminile, in primo luogo l'acquisita consapevolezza che la liberazione può passare solo attraverso la piena espressione della propria differenza. E lo dice benissimo Carla Lonzi, liberarsi per la donna non vuole dire accettare la stessa vita dell'uomo, perché è invivibile, vuol dire piuttosto esprimere il suo senso dell'esistenza, cioè è una liberazione che deve passare attraverso l'espressione della propria differenza. Questo è sicuramente un passaggio soggettivo che viene aiutato dalla temperie culturale. Abbiamo sentito prima il Capolicchio che diceva gli uomini sono spaventati da questa esplosione femminile, diceva la conduttrice, esplosione, te dice esplosione, ma a me mi pare che siamo addirittura agli inizi, insomma. In realtà non è proprio così, perché il 77 è esattamente l'anno in cui si passa dal movimento femminista al femminismo diffuso, e la televisione dell'epoca intercetta questo movimento e lo restituisce in questo senso piuttosto bene. Io mi fermo qui. Sì, diciamo che la linea di continuità fra gli studi che noi abbiamo fatto sulla radio e sulla TV risiede proprio in questo concentrarsi sui temi che Elisa adesso ha citato e che richiamano molto il femminismo. L'esempio di Sala F, che è il programma che io ho studiato, è un esempio che diciamo ci può fondamentalmente anche far pensare a quanto si siano trasformate anche le routine produttive all'interno della radio, perché è il primo esempio di programma radiofonico su Radio 2, RAI quindi, programma interamente gestito da donne, regista donna, conduttrici donne, e quella che oggi chiameremo la capo progetto, la capo area è Lidia Motta, una figura storica della radio pubblica italiana, che fino ad allora si era occupata di teatro e si era occupata di programmi culturali, diciamo, di ampio spettro, ma che prende praticamente in gestione lo spazio solitamente dedicato al 3131, che è un programma storico della RAI, nato nel 69 e che negli anni si era manifestato come la prima grande occasione per il pubblico della RAI di telefonare, di parlare al telefono con la radio, di esprimere, di intervenire, una pratica che poi le radio libere hanno sdoganato in tutto e per tutto, ma che in RAI ha avuto la sua prima vera e propria espressione. E Sala F è la stagione F, la stagione femminile o femminista, questa ambiguità rimane inespressa anche nella stessa autobiografia di Lidia Motta, che è stato un documento molto interessante da studiare per questo lavoro. È appunto la parentesi femminile femminista della grande stagione di Chiamate Roma 3131, che era stato prima di allora soltanto uno sfogatoio di malumori e di sostanzialmente di volontà di protestare in onda su cose che potevano essere di ogni genere, ma chiaramente mai in diretta, perché si trattava di un programma fondamentalmente registrato e super controllato. Mentre dal 78, cioè dalla seconda stagione di Sala F, la prima è ancora registrata, si parte con la diretta, che è una grandissima liberazione, un'operazione anche proprio politica fortissima, perché vuol dire lasciare spazio anche all'imprevisto, anche all'incidente di percorso che capita, infatti, e genera una serie di polemiche, come per esempio di quando una delle consulenti, una delle persone che conduce il programma consiglia a una mamma di dare la pillola anticoncezionale alla figlia, 1978, apri di cielo. RAI, capirai, RAI, sì. RAI in gestione Radio 2, che era chiaramente, diciamo, di ispirazione democristiana. Ecco l'ambiguità di Sala F. Sala F è un programma che è troppo provocatorio per i ben pensanti, ma troppo poco rivoluzionario per i rivoluzionari. Sì, quindi rimane a metà. E quindi così rimane appeso. A metà, come molte delle cose che vanno in onda sul servizio pubblico, come è abbastanza comprensibile visto il legame con la politica. Però Sala F mette in campo una vera e propria rivoluzione da un punto di vista appunto produttivo, proprio perché è la prima realtà, come abbiamo detto, che mette al microfono conduttrici che non sono esperte, che sono potremmo dire, le ho chiamate prima consulenti, ma è un termine anche troppo professionale, sono persone che parlano in ragione di quello che hanno vissuto, e quindi se una settimana Sala F è dedicato alla droga, all'esperienza, diciamo, della droga, lo fa con persone che si occupano di recupero hanno esperienze di questo tipo, attraverso figure che non siano autoritarie, ma che quindi mettano l'ascoltatrice che chiama, e si tratta prevalentemente di donne, non c'è una preclusione rispetto a chi può chiamare, chiaramente può chiamare chiunque, però è evidente, è stato poi nei fatti, c'è stata una scrematura naturale che abbiamo poi fatto attraverso appunto gli archivi della trasmissione stessa, che chiamassero prevalentemente donne, e diciamo che in questo equilibrio fra essere troppo eversivo per alcuni e troppo misurato per altri, in realtà comunque ha avuto una grande forza questo programma, soprattutto rispetto all'emancipazione femminile, perché è questo il tema che più viene toccato. Chiederei l'ascolto del frammento che abbiamo preparato e poi magari mettiamo a fuoco un pochino questi temi. Pronto? Pronto. Buongiorno Gilda. Buongiorno. Gilda, lei voleva parlarci della sua esperienza. Sì, io volevo appunto dire che sono separata da 7 anni e sono contenta, francamente, insomma, trovo che è stata un'esperienza molto positiva. Sì. Ecco, il fatto non di separarmi ma di vivere da sola, ecco. Sì. Lei lavora? Scusi, ma non la sento molto bene. Lei lavora, ecco, Gilda? Sì, io lavoro. Sì. Lavoro, insomma, un lavoro che mi dà soddisfazione, insomma, ho una bambina di 10 anni. Una bambina di 10 anni che vive con lei? Sì, con me, senz'altro. Sì. A questo mai l'avrei lasciata. Comunque, mi trovo bene, sì. Insomma, mi sono organizzata molto bene. Sì. E penso, guardi, io penso che indipendentemente dal fatto che uno si trova per forza soli, bisognerebbe fare queste esperienze fin da giovani, ecco, io ho questa idea. Perché è bello, si imparano tantissime cose, si impara ad affrontare la vita, a non aver paura della vita. Sì. Mentre invece purtroppo noi donne specialmente, ma anche gli uomini, si vive in famiglia fino a 20-25 anni e poi uno si ritrova così a dover affrontare tantissime cose che poi fanno paura veramente. Quindi lei pensa che sarebbe meglio, diciamo, che di fare un'esperienza di vita da sola prima di sposarsi? Ecco, sì, ecco, io penso questo, penso che sarebbe molto importante per tutti, non solo per le donne, perché gli uomini intanto imparerebbero un po' a vivere da soli e non essere, insomma, egoisti, no? Come sono a pretendere poi. E le donne imparerebbero anche ad affrontare certe cose. E forse non ci sarebbero tanti matrimoni sbagliati, perché uno ci pensa su e ci ripensa e magari poi o si sposa perché veramente vuole sposarsi o decide di rimanere sola. Capisci? Invece sì. Magari come per me, mi sono sposata, penso, a 25 anni. Volevo un po' di libertà mia, ecco, capisci? Perché mia madre è meridionale, lei ha ancora le sue idee. E io a 25 anni io non potevo uscire da sola, non potevo andare con le amiche. E ho sbagliato in questo, ecco, credendo con il matrimonio di essere un pochino più libera. Mentre invece purtroppo non ero preparata. Beh, certo, concepire il matrimonio come la libertà è questo forse un errore che uno fa. È un errore gravissimo proprio, ma quando uno non sa, capisci? Quando uno non ha provato, pensa, dice, oh, un uomo, il matrimonio, faccio questo, invece non è affatto vero, perché... Ecco, no, questo è uno dei tanti frammenti che noi abbiamo ascoltato e analizzato, ci dà uno spaccato di un'Italia in cui le donne sono un po' sospese fra una soggettività forse ancora pensata in modo tradizionale, ma anche alcuni stimoli dovuti dalla dibattito sull'autonomia lavorativa e soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la famiglia di origine e i modelli familiari che vengono sostanzialmente messi in campo, perché si sente in tutti questi, questo è uno dei tanti ascolti che noi abbiamo fatto, il racconto di una fatica, che vive nella necessità di rendersi dipendenti dalla famiglia prima di affrontare un rapporto di coppia, un progetto di famiglia propria, di misurarsi con se stesse, di esplorare una crescita personale e affrancarsi da una condizione sociale che non piace. Diciamo che fondamentalmente i temi principali messi in campo da questo programma, che appunto andando in onda in 3 stagioni tutti i giorni ne ha veramente raccontate tante di storie, sono prettamente problemi legati ai rapporti di coppia, quindi molto orientati sul rapporto uomo-donna, al matrimonio e alla vita diciamo sessuale di coppia, ma anche tutto ciò che riguarda l'emancipazione femminile e quello che comporta nella sfera pubblica. Questo modello della donna sola preoccupante per l'uomo, no? Che ritorna anche in sala in partita 2, anche nella presenza di coppie meno magari più privilegiate, se vediamo, meno tradizionali e che se lo possono permettere, che godono sì, di una posizione sociale che permette una certa libertà. Nella mente degli uomini, dice un'ascoltatrice a un certo punto, e di molte donne, il fatto che una donna viva sola per libera scelta è molto sospetto. La donna che vive sola è sinonimo di donna poco per bene, è un condizionamento che bisogna assolutamente combattere perché non è fondato. Queste sono parole che la curatrice di questo programma riporta da un intervento di un'ascoltatrice, e che quindi un po' racchiudono questo momento privato vissuto in pubblico attraverso la radio, che consente delle forme quasi di autocoscienza da parte delle persone che chiamano, che non sono necessariamente persone impegnate politicamente o che hanno una riflessione politica in atto, ma che di fatto poi la suscitano anche da un punto di vista molto, molto più semplice, fatto di tematiche che vengono dall'esperienza quotidiana e da un'esperienza anche molto, molto intima, molto privata. Tra l'altro, mentre la televisione è fondamentalmente immagine e quasi messa in scena di uno spettacolo, di una forma di intrattenimento pura, per quanto riguarda questi programmi radiofonici, siamo di fronte a un messaggio che entra molto più direttamente nella sfera intima delle persone che ascoltano, ed è adatto in particolar modo a raggiungere chi è isolato. Lo stiamo raccontando un po' anche in questa giornata, per cui l'intimità del mezzo si sposa molto bene con l'intimità delle tematiche, con l'intimità anche con l'anonimato che la radio consente, no? In televisione ci vai con la tua faccia, in radio sei voce, e non vieni giudicato in base all'aspetto fisico, in base al tuo corpo, alla tua corporeità, e quindi al ruolo sociale che in qualche modo porti nel mondo. Questo stile, diciamo, che Sala F ci ha un po' raccontato è, secondo me, una lezione anche per la radio di oggi. Io sostanzialmente poi, diciamo, nell'analisi noi abbiamo visto che la connessione con il movimento femminista di questo programma è molto discutibile, nel senso che appunto attraverso opinioni anche, se vogliamo, totalmente lontane dal movimento femminista, il programma dice delle cose che possono essere comunque da stimolo per la riflessione femminista. Quello che per esempio poi viene alla fine di questa esperienza di Sala F, che dura appunto 3 anni, dopo 3 cicli annuali il programma viene chiuso. E viene chiuso a sorpresa, perché comunque era un programma che aveva un grandissimo successo. Viene comunque ricordato come un programma che ha insegnato alle donne a parlare, a dire le proprie ragioni su problemi grossi come il divorzio e l'aborto, in particolar modo perché nelle 3 stagioni ci sono stati referendum sul divorzio e sull'aborto che hanno comunque messo in campo dei temi molto, molto caldi, in cui le donne venivano fondamentalmente chiamate in causa e che mettevano in crisi il ruolo della donna in maniera molto forte. Io mi fermerei qui semplicemente segnalando appunto che questo tipo di verbalizzazione del privato è chiaramente un mondo che nella radiofonia privata, nella radiofonia libera, sì, in quegli anni ha raccolto tantissimi frutti. Però ecco, la maternità, se vogliamo dire, di questa forma anche di rielaborazione attraverso i microfoni va cercata in questi programmi, in particolar modo in Sala F, ma Partita 2 è anche un altro esempio, diciamo, di possibilità di discorsivizzare questo genere di tematiche. No, la cosa che mi fa pensare è che adesso sarebbe impossibile riprodurre una cosa radiofonica del genere, e probabilmente anche forse le donne che chiamerebbero non avrebbero lo stesso, nel senso, quella fatica di cui tu parlavi prima, no? Una fatica che in quel momento le donne fino allora non riuscivano a raccontare, però hanno sentito nominare, e quindi l'hanno riconosciuta in qualche modo, hanno visto che c'erano delle altre e c'è stato un risveglio generale. Adesso forse c'è di nuovo, ci stiamo un po' riaddormentando probabilmente. Soprattutto una privatizzazione, una singolarizzazione dell'esperienza, sì, mentre sì, invece sì. lì era proprio il contrario, era proprio il contrario, una collettivizzazione.